Va bene, adesso l'idea è un po' di entrare nello specifico di chi attraversa questo territorio con l'idea, appunto, seguendo un po' la traccia e l'affascinazione di quello che diceva la professoressa, che secondo me ha colto un po' anche quello che a noi ci preme e che sentiamo in questo momento, no? Rispetto anche a quello che sta succedendo in questi 3 giorni, i rapporti che abbiamo con gli agricoltori, col territorio in cui viviamo. Dicevo prima, noi stiamo a sud-ovest di Milano, in un territorio particolare con una forte tradizione agricola e che subisce delle trasformazioni repentine e che subisce in qualche modo una forte trazione da parte di Milano. E lo vediamo anche rispetto agli agricoltori che incontriamo tutti i giorni, no? A un certo punto ci siamo resi conto che tutti tirano la giacchetta di questi agricoltori, sembra che siano la soluzione di tutti i problemi, dei problemi del mondo, di Milano. E guarda caso, boh, infatti era interessante il titolo di questo Expo, no? Milano che dice che vuole nutrire il pianeta, quando in realtà sappiamo benissimo che Milano, quando la attraversiamo tutti i giorni, la cultura, la progettualità di questa Milano la conosciamo bene. Noi con uno slogan abbiamo detto: Milano vuole nutrire il pianeta quando ammazza per pochi biscotti. Qualche mese fa è stato ammazzato Abba. Qualche giorno fa, personalmente, ho visto lo sgombero di una casa occupata da migranti e non c'era nessuno se non la Celere, non c'era un politico, non c'era un giornalista, non c'era un'associazione. Questa gente è stata sbattuta fuori, lasciata all'agghiaccio, bambini, famiglie. E questa è la Milano che dice in realtà invece che vuole nutrire il pianeta, che vuole coinvolgere gli agricoltori e così. Vabbè, a parte questo, era un altro stimolo che volevo dare alla discussione. Volevo far parlare per primo gli spazi sociali, insomma, mi sembrava così interessante lo sguardo, anche perché appunto noi un po' scherzando, l'abbiamo detto anche in conferenza stampa, all'Expo c'è già. Nel senso che questo è un evento, nel senso che è un diverso evento, ma è un evento, nel senso che comunque accade annualmente, c'ha 3 giorni, però è un evento che cresce dal basso, che coinvolge veramente la città, che c'è conflitto nell'evento stesso, nel senso che comunque è attraversato da persone diverse, che discutono anche animatamente, che non la pensano nello stesso modo, però ci siamo accorti che veramente questo è un evento, questo produce qualcosa, delle trasformazioni in un'altra direzione, reali, anche sociali. Vediamo che Milano è stata attraversata veramente dall'agricoltura, insomma, si respira. Dall'altra parte adesso vediamo invece quest'altri che parlano di Expo, di agricoltura, si improvvisano, invitano gli agricoltori a fare e a disfare, insomma. E ci piaceva invece l'idea, io pensavo di far parlare adesso Alessandro e Andrea. Che Alessandro è del Leoncavallo e Andrea di un altro spazio sociale di Rho, che tra l'altro è stato anche sgomberato, che fa parte anche del comitato No, No Expo, e ci piaceva la visione degli spazi, insomma, in qualche modo comunque così.